Vicino è una passeggiata, io lo sai che è vicino. E lo so, in viale Porto Torres ci sono zingati. Come voi, la sera io una mano te la posso dare. E il fatto che io non ce la faccio andarci a piedi, che mi fa male la gamba come la sforzo appena appena, mi vengono dolori, mamma mia. È da solo un casino a farlo. Ci vogliono almeno due persone, se andiamo a piedi. È un casino, queste gambe. Ogni tanto anche le mie già scricchiolano, ma ancora stanno andando avanti. E meno male che sono leggero di peso io. E anche io, però a me non mi arriva sangue a questa gamba. Mi fa un male tremendo. Che miseria. Che dove va? Sentiamo niente, dai. Se l'altro giorno per farmi il vaccino antinfluenzale, guarda, tu non lo sai cosa ho passato io, perché sono andato a piedi, a mi ha fatto un va. Poi un po' in salita pure. Sì, come prendo la salita guai. Alla tornata invece no, grazie, in discesa, tranquillo. Ma all'andata, Gesù Cristo mio. Comunque, stai scendo bene, però dai, non sono problemi. Sai che tu vuoi cambiare l'antenna, se no il tubo se lo spingi da sotto e lo mandi su, libero a scorre, se gli metti diciamo un pezzo di prolunga sotto e spingiamo verso l'alto, è che il cavo non basta però. Come il cavo non basta? Ehi, dico, se l'antenna che c'hai la mandi su da sotto, la spingi verso l'alto, se scorre nella stampa superiore, visto che è legata a un vari generi da Peru Ferro, per esempio. Già scorre, perché non scorre, è senza radiali, senza niente la Game Master. No, quella che c'è adesso, a mandarla su in alto, così mi attesti, se non c'è imbrogli di fili e di gradini di tubi, se è liscio, metti la prolunga sotto e mandi in alto. Ma questa non... bisogna scendere prima questa l'antenna. Casotto e poi metterci un palo che da 4 metri dentro a quello che c'è adesso, quel palo dove è attaccata l'antenna, capito? Sì, no, era per provare quella che c'è adesso, mandarla in alto di 4 metri, se c'è il cavo a sufficienza da mandarla su, per fare una prova e buco. Già lo so che prova vuoi fare, che quando mi si riempie d'acqua mi servono le stazionarie a più di due e mezzo. C'è anche quello, minchia, non te ne va bene una. Questa ogni tanto mi si collata, però ce l'ho davanti alla finestra. La butto giù, la allungo di nuovo la canna. un po' di nastro, vorrebbe incollata, boh, messo un po' di, insomma, bloccata, dai. Ho capito. Ma io non so perché non la metti, sul tetto quell'antenna lì. Sì, ma se l'avessi messa sul tetto, vedi, già quest'anno almeno 3-4 volte se l'è scesa. Deve essere una cosa sicura, se la metti sul tetto deve essere una cosa sicura che non se ne scenda mai una dentro l'altra. O la riempi di schiuma, non so, oppure la devi incollare con qualcosa, col tangit, qualche colla, dai. Vuole fissa proprio la canna. Per fissarla la canna ci metti un po' di nastro vulcanizzante e poi il nastro normale sopra. E non scende. Nelle giunture, mi fai così, ed è bloccata. Perché col caldo con la torta tende a scendersene, tra il caldo e il freddo, non lo so, vulcano. Col nastro normale sicuramente, con quello agglomerante, in certi punti è acceduto, perché c'è una sorta, c'è peso, mi davanti, tutto il cavo che pesa, grava sugli elementi, dai, e collassano. Ma col cavo, col nastro vulcanizzante, se tu gli fai le giunture e poi ci metti sopra il nastro vulcanizzante, il nastro normale, non dovrebbe cedere. È quello. Ci vuole un'antenna sicura, che una volta che la metti devi essere sicuro che non dà problemi. Aprendo il tetto, capito? Adesso l'altro giorno mi sa che qualcuno ha fatto le antenne della televisione, adesso sta entrando acqua, si è lamentata, arrangetevi, io da poco l'avevo fatto, come si dice, mettere la guaina nelle antenne, nei tubi, dai, adesso, è un casino, ogni volta che sale su qualcuno entra acqua. Mamma mia, io perché non sono voluto salire sul tetto, per quel motivo, perché l'hanno aggiustato da poco, perché entrava acqua, ma è tutto buccio mare, sa gabicciuria, si faceva che cosa, arriva la gatta gabicciuria, e cambia un vaseva, poi no, che la gente ronfia, capito, l'hai, e non mi sono fidato. E allora è quello il problema, alla fine rompono sempre le scatole. Adesso qualcosa hanno mosso, o piattando l'antenna hanno lesionato, diciamo, il vulcanizzante che c'è alla base dell'antenna. Sai com'è, tu gli metti tu, gli molla e tira, e il tubo si muove e l'acqua entra. Meno male già l'antenna che hanno messo loro, quindi era per loro stessi, quindi ha detto arrangetevi. Certo, non posso stare ogni anno chiamando ogni anno, da poco l'avevo fatto fare, prima delle piogge, ho fatto fare tutte le giunture, dai. Gesù che sta entrando a casa. È un macello, e anche così è un macello. Allora, se accendu succede a macchiarsi cose. Infatti, prima o poi bisogna mettere una botola, ci vuole una botola, come quelli abbaini, dai, in modo che uno si affaccia lì e fa tutto da quella botola lì, le antenne deve, oppure togliere tutte le antenne e mettere solo una, mettere la centralina, è che ci vuole la corrente, e lì su non abbiamo corrente per alimentare la centralina. E dalla luce delle scale, non parla la luce delle scale. Non fa, perché lì c'è la luce solo quando scacci il pulsante dai pianerottoli. Bisogna fare l'impianto nuovo, dai, ci vuole una colonna montante predisposta in modo che ci passi tutto dentro, cavi, gli antenna, citofono, lo devo chiamare anche per il citofono, perché molti non si sentono i citofoni, ci sarà cambiare il modulo di giù. Un problema, è un problema grande così. Poi sono tubi quelli sottili, quei tubi che si usavano prima, rigidi, e dentro c'è una specie di cartone, boh, non si comprende nulla. E sono case che hanno tanti anni. E infatti, io non ci sono salito perché lo sapevo che il tetto era messo male, capito? Se no avrei chiesto il favore da quella dell'ultimo piano, sarei entrato dalla botola lì. Però si faceva che cosa a voi, cosa succede? E quindi voi avete almeno una botola, qui invece devi togliere tutte le tegole, fate un buco e poi rimetterle. Due anni fa mi sembra avevo tutto ricontrollato, il tetto tutto ripassato, le tegole vecchie, quelle consumate, cambiate. Anzi, è anche difficile trovare quel tipo di tegola, perché non mi ricordo che avevamo modificato un po' con la moletta, perché non chiudevano bene una con l'altra. Non è come lo stampo di originale, dai. Adesso le fanno, sì, però sono molto approssimativamente compatibili. E ho capito, il solito macello in questa gatta. Io non gli tocca a Ferrati e non andare, se ne è giunto uno che mi vuole accudire, no, figurati. Infatti, allora adesso già mi dispiace, ma certo, mi piacerebbe anche a me avere l'antenna bella in alto sul tetto, un bel palo, 5-6 metri, però ci accontentiamo. Infatti, tu già esci bene. Ma non sento nessuno, io porto Torres e lo sento a malapena, Alghero zero, Sorso bassissimi, Osio non ne parliamo, Muro peggio che mai, non sento nessuno, appena si allontano dalla Sassari ho difficoltà. E anche io, da me c'è solo un metro dal tetto, infatti come ti mi raggavo chissà, e metto più in alto la, come si chiama, la game master dove sentire a tutti. Vabbè, anche io penso di sì, perché non è che c'hai case altissime in giro, dai. Una volta la fai passare dalla cuspida dei tetti lì, penso che non hai problemi. Infatti, ho problemi di ricezione adesso, ecco perché anche ne la voglio buttare, perché oltre che è troppo bassa, non intende nessuno, mi si viene ad Eva, Gesù Cristo mio, la faccio a pezzi quell'antenna, è che l'ho promessa mia, un amico, già la mettiamo a posto, perché quando si piena d'acqua succede che mi manda tutto in corto, 2,5 di stazionarie ci avevo quando era bagnata. Adesso dobbiamo vedere quando la butti giù, in che condizioni è, se si può recuperare o meno, se è ossidata, perché quest'acqua dentro avrà fatto ossido sicuramente, e se no se la piglia nuova è di burro. E infatti, se non l'avremmo a pezzi e ce la rampemmo, cosa vuoi che ti dica? Facciamo così, ma già penso che si possa recuperare, perché era qualcosa trasparente che entra l'acqua, vedi? Basta smontarla e la facciamo come deve essere fatta, in modo che non entra più Eva. Quanto dai? Ma che c'hai adesso? Energy si chiama, è un'antenna dell'Assirio, è come la BA27L. La Energy, sì, mi ricordo vagamente qualcosa, se capita me la guardo un po' come su internet. E c'ha tre radiali, c'ha. Tu guarda BA27L ed è chissà l'antenna, oppure Energy, sono uguali. Sbagliato, so. Ma io sono, ieri avevamo di festa, il compleanno, festa a sorpresa, i tempi di recupero non sono più quelli di una volta, Natali. La vecchiaia è carrogna, fra. Se andare a lavoro sembravano zombie. E me lo posso immaginare, mamma mia. E se no quando andavo a travagliare io, cazzo, lavoravo come un coso, buh, mi picciolai. Hanno imboscati e fa sempre il dovere duio, cosa ti succede da buh. Poi freddo, stamattina era un freddo, umido, buh. Non riusciva a toglierlo da addosso. Rega, quando così è feo, mamma mia. Io lavoravo come uno schiavo, lavoravo. E poi per che cosa? Beh, mi sembra che abbiamo sbagliato tutto nella vita. La gente mandrona, una gatta non fa mai nulla. E non è che se ne accorge la gente. Come vedo che ti fermi tu, invece se ne abitano subito, ma ragazzi. E infatti. Yeah. E fanno davvero. Da voi di Ruia, da ragazzino io ho sempre lavorato, capito? Da ragazzino piccolo, se andavo a scuola e me ne alzavo alle 5 del mattino per andare a lavorare e poi andavo a scuola dopo che avevo, capito? vita. E babbo me lo diceva, vai a studiare, vai a studiare, invece a me mi piacciono i dinari, i divertimenti, e me ne sono uscito da cura. C'è un fischio, è così, mi ricordo un mio amico, la mamma la regava in cura, il mio marito all'elementare, quando andava a casa, si è arrivato, prima letta a casa, avanti il fischio. Sì, ti ascolto, come le dico, un segnale sempre basso, però ti ascolto bene, non ho quel rem, ti ascolto Claudio, ancora avanti a te con la buonasera. Sì, ci scappa, buonasera Franco, mi interessava la modulazione, sto facendo una prova, sto facendo un apparato, vedi un po' come mi ascolti Franco, la modulazione, mi interessa la modulazione, non il segnale, riprendi. No, per me va bene, no. Per come ti ascolto in genere va bene, va bene. Anche il segnale forse è leggermente aumentato. Quanto c'hai in antenna? K, poco, 30 watt, sto usando in antenna, capito, sto usando una radio valvolare, sconta, 25 piccolo, un microfono, 30 mp4, mi ascolti bene, riprendi. Io non ho problemi, vediamo un po' se ti ascolta Natalino. Avanti Natalino. Mentre te che lo ascolti, io sento che sta parlando, ma è incomprensibile qua. Figurati, non vedo l'ora di qua, di piazzarmi l'antenna. Ma giudicato di bene. Vediamo se tu l'hai ascoltato, Natalino, credo di sì. Avanti, chiodo. K, molto basso, in mezzo al QRM, Santiago 2, il segnale arriva, però non ho capito bene quello che ha detto, ho capito subito che è vuota, ma non ho capito bene quello che ha detto, comunque lo super saluto, al limite che ricambi più saluti, tutti non mi sta ascoltando, e capito dovuto più che altro alla sua antenna, perché ho problemi alla mia, per il momento non ne ho, perché va molto bene la mia antenna, Franco, capito, l'ho sistemata a cosa, al limite, proprio come potevo sistemarla, ma la devo anche cambiare, perché me ne devo prendere una di quelle che usa Claudio Sparviero, di quelle che vuole, e non appena ho tempo che ne posso le farla con un palo di 6 metri e mezzo, 7, capito, così mi posso fare ascoltare un po' dappertutto, Franco, capito, e stasera sto usando un valvolare, infatti ho visto che mi sta anche aumentando di potenza nel vatometro, perché capito, hai queste più scalde, più pompano, come le moto quattro tempi sono fatte queste radio, quindi sì, sei partito con un segnale di 1, adesso sei arrivato a 2, quindi qualcosina in più la stai erogando. No, Natalina purtroppo anche lui ha più o meno i miei problemi in ricezione, siamo un po' bacini di antenna, e quindi abbiamo difficoltà a sentire i paesi un po' limitrofi. Comunque anche lui ti saluta, ti rilancio il mic, Natalino. Ciao Claudio, non ti posso dire ben sentito perché sento che parli, ma è incomprensibile la modulazione, già me la devo cambiare l'antenna, se mi stai ascoltando. Sì, questo è, non sono riuscito bene a capire quello che ha detto, sì, però è un pochettino riesco a sentire bene quando viene rilanciato, capito, hai all'inizio, però poi tende ad abbassarsi con la modulazione. Natalino e Franco, tu invece mi stai arrivando Santiago 5, qui a Muro, Santiago 5, la radio è buona, 5, ti ascolto bene di modulazione anche, capito, sto usando un valvolare, sto usando e niente, là, mi ha fatto piacere, là, ok, vi ringrazio per il controllo che mi avete dato, però rimango in quel registro, sto facendo altre cosette, sto facendo il computer e non posso modulare, non posso stare in radio, capito, quindi rimango in ascolto, mi ha fatto piacere, vi ringrazio del controllo e vi lascio al vostro QSO e vi auguro che buona serata, riprendi Franco. Sì, K, io ho qualche aiutino in più, quindi per quello magari arrivo con quel segnale, se no anche a me mi ascolteresti un po' bacino, dai. Comunque, ti salutiamo, ti saluto anche da parte di Natalino. Buon QRX, buon tutto, grazie a te per averci chiamato. Alle prossime, un abbraccio anche al QRA familiare. Avanti Natale. Capa, no, non lo capivo, l'unica cosa sarebbe se lui andasse in FM l'ascolterei magari, perché sentivo che stava modulando. Non lo so, vediamo un po', Claudio, se hai un minuto. Capa, poi attaccato adesso, sì, no, perché sto usando un Alfa Lima degli anni 70, 30 watt, una valvola, e questo valvolare, me l'ha regalato Claudio Sparviero, questo coso, questo. potete, dei questi tre canali, solo AM questa radio, purtroppo non so come si chiama FM su questa apparato e sono la possibilità di cambiarlo proprio, da limite farò un passaggio, che ne so, nelle prossime ore se ci siete, ma se ho voglia di entrare più tardi e attacco la radio per stare FM, capito Franco, e proprio il momento non posso trattenermi oltre, da vi lascio al vostro question, vi auguro una buona serata, un buon dubbio, vi mando in ascolto, ciao a tutti, riprendi. Bene, dai, ok, accetto, riferisco a Antonino momentaneamente con questo apparato, con il Comsat della Fayette, non ha la possibilità di modulare in FM, però magari tra qualche oretta, se siamo ancora in linea, è probabile che faccia una prova in FM. Ok, a te, avanti Natale. Ho capito, va bene, in FM magari l'avrei ascoltato, perché in FM imbatte di più la situazione. No, su questo il mio mi sembra che sia uguale, cioè anche come fate, sono gli stessi, c'è in FM che in AM. Ma ti arriva più forte lui, tu pure gli arrivi più forte in FM. No, se pure a me gli altri mi arrivano lo stesso segnale. Vabbè, che c'è un maracchino, è un giocattolo, non è che sia un apparato professionale. Ma non penso, ti dovrebbero arrivare più forte, ti dovrebbero di ricezione, mi li senti più chiari e tutto. Io e Eugenio, quando è passato in FM, lo sentivo benissimo, lo sentivo, e anche lui mi sentiva bene, anche se io in AM ho difficoltà a sentirlo, lo sento basso basso a Eugenio. Sì, no, questo sicuramente vuole tutto centrato, a parecchi che siano 40 anni, non gli ho mai fatto nulla, sicuramente ci vorrà un po' di cacciavite per allinearlo nuovamente, perché mi accorgo che non è il massimo come FM, anche come frequenza, non so, non è proprio centrato, cioè, mi devo spostare un po'. E allora? Catasorso, Franco di Sorso si è spaventato quando mi ha sentito in FM, senza mentare né vatte né nulla. E tu con che apparecchio? Con quello da combattimento? E con questo che sto usando adesso e anche con l'altro. Se è quello che mi hai fatto vedere, sicuramente riuscirà meglio di questo, dai. Ma facciamo una prova in FM. Prova, aspetta che abbasso tutto, no? Tanto non ci serve questa potenza. No, assolutamente. Non è che stati e vatti anche stati dietro, c'è il dissipatore di luminio, cosa che questa non ha, oppure non ce l'ha. Buona. dell'FM poco fa, chi era? Forse è nata lì. Dove stavano facendo delle prove? Ma credo che sì. Io ero da un'altra parte. Ebbene, da parte, tutto a posto? No, tutto a posto. E c'era quello. Niente, tutto a posto, niente in ordine, come sempre, no? Così dicono, ma riparte le cose e rimetterle a posto dopo. Ah, aspetta, ma sono io, che non ti sono un attimo, che ho toccato una cosa. Mi stavo preoccupando perché non sentivo l'apparecchio, ma che cacchio è successo? Quello è successo, ho attaccato l'altoparlante esterno, questa radio funziona, e c'era il filo del coso, il mini jack dell'altoparlante esterno mezzo staccato, come lo muovevi funzionava, là l'ho staccato, ne avevo uno di ricambio dell'SP23, ne ho messo uno nuovo, è già intestato, e quello lo tengo discordato per saldarli dove si è staccato la massa. C'ho un'impressione che sei bassissimo di radio, ho un problema ad ascoltarti. Ah, scusa, quando ho mosso la radio ho tolto il coso, adesso meglio mi ascolti. Adesso sì. Quindi stavo armeggiando, ma ho detto ma non dipenderà da me. E invece sentivo il QRM forte. No, come ho girato la radio, ho toccato dei tasti, infatti c'era il lock inserito, ho detto che non funziona più niente, cosa è successo? Io ho visto l'interruttore illuminato di verde, ho detto a me qua c'è il lock bloccato, e c'era il processore staccato in ogni caso adesso. Detto va bene adesso? Adesso va meglio. Però di lì ti conviene metterci, ma tanto è tutto inutile. Dato che c'è pochi apparecchi, ci conviene metterne uno specifico di quelli da 13 per parlare qua e lasciare quelli lì in altri posti, perché stai a toccare, a regolare per qua in AM, ma l'AM di là, chi la utilizza? Non sia un aereo, ma neanche gli aerei, perché gli aerei hanno un altro tipo AM. No, vabbè, tanto me devo comprare un altro di microfono quando mi capita qualche occasione, o come si chiama, vediamo un pochettino. Adesso mi ho ordinato, sabato non si è arrivato oggi, uno di quei, di quelle giraffe, ecco, già col microfono a condensatore, bello, di quelli, non so se l'hai mai visti da studio, che hanno il coso paravento davanti, e di lì ci inserisco il 60. E c'ho un altro microfono, vedevo un po' che voglio vedere un pochettino se si può utilizzare, perché quello addirittura è anche meglio del 60, mi hanno detto, il problema è solo l'alimentazione, metterlo, alimentarlo, perché quelli a condensatore sono alimentati, sembra, tre volte sono fatti. Vabbè, bisogna studiare tutto il discorso, quello poi lo farò al momento opportuno, perché non ne voglio microfoni in mezzo ai piedi, su dove sto lavorando, dove sto scrivendo, ho questi due microfoni in mezzo ai piedi e non mi piace. Metto il braccio in alto in modo che scendo. E anche il comandapedale ci vuole, se uno scrive. E quindi inizia ad essere difficoltoso parlare anche. Io ti ho detto, per qua, per la 27, dato che gli altri due sono ampiamente sprecati, non ci stanno a fare niente qua, e prenditi un apparecchietto da 13, di mettertelo di lì attaccato da qualche parte, senza bisogno di... Io ho voluto fare così perché gli altri apparati mi servivano, e io ne ho, non è che ne abbia... Io ho le antenne collegate a tutti, però ho preso questo, sono stato anche fortunato perché c'è il lente, mi dicono che va bene, adesso è normale, il suo microfono da palmo, volendo ci puoi mettere quello da tavolo, costa una fesseria, e ti liberi le altre radio per fare cose più importanti. No, ma ce le ho già cablate le altre radio, c'ho il coso, il base e il pace, con il suo microfono attorno al più 3, che l'ho tolto lo stesso a mezzo ai piedi, perché io ho dedicato una parte, diciamo, radio amatoriale, l'altra per CB. Poi c'ho oltre il pace, che quella è una radio di vecchia generazione, però funziona molto bene in emissione. Qui c'ho un multicom, sempre stazione base, quello è il mio più bello di tutti, della Intec, bellissima radio, il microfono, gli devi mettere un bel microfono, se c'è una cagata, però la ricezione è una bomba. Io ho un Alan 48 già collegato e un altro base, come si chiama, sempre della Intec, un altro modello, adesso non mi ricordo, 30, 34, non lo so, già sono commutabili tutte quante le radio, no, questo lo tengo così per comodità, tanto non sto andando da altre parti, per andare da altre parti utilizzo il, cioè 940 e il TS2000, e più ciò il TS711 per la diretta delle V, delle U, scusa, delle, delle V con l'antenna piccola. Aspetta un attimo, io sto sempre scandagliando perché è la mia abitudine. CQ10. Ah Natale, tu Natale, sentivo sotto di cosa, avanti Natale. Ehi, buonasera. Ciao Natale, ma poco fai in FM eri tu? Ehi. E come mai? Perché stavo parlando con Franco, stavamo facendo delle prove e adesso l'hanno chiamato al telefono e sono ripassato in AM perché ho sentito a voi. Ciao Natalino, ti stavo ascoltando ma non potevo entrare perché mi stavo afferrando con cosa, con un amplificatore antenna, per di più di quelli tutti schermati, tutti così, ma non si può mettere qua in parole folle. Ci sono questi impiegati di stazioni in FM che fanno massacro, si massacrano veramente, stanno uscendo, guarda, fortunatamente tutti gli apparati sono molto solitivi e quindi senza amplificazione vanno tranquilli e sono molto sensibili. Però se ci attacchi questo attrezzo, questo amplificatore in ricezione, che è buono, non è roba da 13, ma guarda, è meglio spegnere tutto. Riprendi Natale. Sì, stavo ascoltando anche un'altra persona. Vabbè. Aspetta un attimino, vado da un'altra parte, scusa Gianfra, perché guarda come c'è il Marco, se vuoi saltare anche tu a 4.50. Io sono sul 20 e poi con Marco siamo a 4.50 come al solito, buonasera a tutti, ciao. Infatti adesso mi ho mandato un messaggio, mi ha mandato un messaggio a Marco, poco fa glielo ho mandato io, forse non l'ha letto, quindi 20 monitor e 4.50 diretto. Sempre al solito. Gianfra, compri. Hai capito Gianfra? Yes, sir. Natalino, consolami. Beh, sta scarica. Già vi ascolto anche là, non c'è problema, Gianfra, se vuoi andare. E ogni giorno mi tocca farmi adesso la flebo. Aspetta, mi preparo il treppiede, la riempio di... Boh, cosa ci metto dentro? Ci è aranciata. Mettici quello che vuoi. Eccomi, ciao Gianfra. Là, ciao Fra. Io mi stavo spostando, ma ho chiamato da un'altra parte. E mo mi sposto. Quindi ti lascio un Natalino. Magari ogni tanto se ci riesco, se non mi fanno diventare scemo di nuovo. Buona migrazione allora, dai. Buona serata. Avanti Natalino. Ciao Gianfra. Basta l'altra radio. E dove stanno andando? Li possiamo seguire? Sono nelle bande loro. Lo sai dove stanno andando? Mi chiede una chiamata su Cabo Astro, con il ripetitore, non so che sigla abbia. Cos'è, Fra? Ho accettato una chiamata sul ripetitore sul ponte di Cabo Astro, non so però quale sia il nome del ponte. Ma sono in diretta loro. Senza usare ponti. Ehi. E dove li possiamo trovare? Aspetta un attimo. Fra, guarda su WhatsApp. Allora vado a prendere il telefono. Ci sei? Sempre, ma va tutto bene, nemmeno uno. Sì, qua tutto tace. Nato, c'è Natalino, ci sei? Che okay, avanti. Che ti scatto? Che qualcuno che ha mangiato scagliola. Allora, aspetta che chiamo Natalino, che l'avevamo su un'altra frequenza, vedi, non posso lo recupero. Non gli funziona un programma che c'è sul telefono. Ah, ho capito. Franco, lo sai cos'era quel fischio della parete? Quello l'altro giorno che... Che apparecchio era, che non usciva bene, dai. Questo era. E l'altra volta ho commutato banda laterale. E poi che cosa è successo? Che l'avevo messo tra una banda e l'altra, non l'avevo fatto fare bene lo scatto tra una banda e l'altra, capito? E non usciva bene. È rimasto a mezz'aria. Caspita, vedi? Però non ricevevi così. E io a ricevere sì, riceveva. Però non usciva bene, capito? No, cos'era? Il Galaxy era, se non sbaglio. Il Galaxy, sì. Però mi stava facendo uscire il testo, ho cambiato gli spezzoni, boh, niente da fare. Vabbè, adesso con l'antenna nuova dovresti ascoltarmi bene, No, no, ti ascoltavo bene anche prima, io non ho mai avuto problemi. Giusto, vabbè, quando c'era piegata in due. È logico che non arrivavi un segnale 5-6, se non sbaglio. Sì, sì, quando si è piegata, ma adesso già va bene, mi hanno dato dei buoni segnali. Hai migliorato rispetto alla game oppure è rimasto uguale? Ma mi dicono che sono uguali i segnali, Franco di Sedoli mi ha detto che è uguale a prima, Eugenio, Porto Torres, mi ha detto che era uguale. E quindi vedi, rimane sempre un'ottima antenna quella la Game Master. E che magari dovrebbero leggermente ingrossare la schedula della vetroregine per renderla un po' più robusta e basta, perché come antenna è micidiale. Sì, anche lontananza va molto bene quell'antenna. Essendo di polo va bene anche lontananza, capito? E vabbè, l'unica cosa da fare è come hanno già fatto a cosa, come si chiama? L'hanno fatto già in un'altra antenna, adesso non mi ricordo come si chiama, hanno messo un tubo sopra in tutta l'antenna e poi spruzzato un po' di tirare espanso, non c'è più mussa. Caspita, se non crea problema l'antenna, ma non credo, tanto sono quei tubi, sicuramente tubi elettrici, quelli che usano per fare canalizzazione, non lo so. Oppure come ha fatto Giulio, mi sa Giulio ha rinforzato tutte le aggiunture proprio con quel tubo di acqua, con quel tubo di elettrico, e poi invece l'abbia vulcanizzato. Tanto dove si spetta in genere? Nelle aggiunture? Sì, si spetta proprio dove entrare. Non è che si spezzano, fra, ma come spiegartelo? Si spacca la vetroresina e non tiene più, capito? Boh, non ce l'ho presente, però il fatto sta che senso che adesso il filo si sia piegato, diciamo, una volta che si spezza è rimasta pendolone verso il basso. Magari quello spezzone lì vorrebbe cambiato quel cavo, che si rovina la parte di elettrica, quando fanno delle pieghe troppo accentuate. No, non gli ha fatto nulla al cavo, perché è bello grosso, tu l'hai visto, ma è bello spesso all'interno. Non gli ha fatto niente, poi ha fatto un bel vento, grandine, insomma, di tutto e di più. E infatti la prima cosa che ho fatto, dopo quella grandinata, sono andata a guardare e l'ho vista a penzolone. Ma fatavi la mia crimalla. L'ha crepata sopra, capito? Non dove l'avevo aggiustata io la prima volta. La prima volta gli ho messo tre fascette d'acciaio e l'avevo bloccata con le fascette e teneva la grande. E lì era bella rinforzata, è sopra, capito? Ma probabilmente è stato sbagliato come è stata piazzata, non è questione di antenna, la questione è che non sono state rispettate le misure piazzandola. Io non potevo fare manco nulla perché mi dovevano operare e non riuscivo manco a muovermi, e quindi me l'hanno fatta gli altri, però sicuramente non hanno rispettato le misure, ne hanno entrato uno più dell'altro e quindi cosa è successo? Che si sono piegati. Sì, bisogna rispettare le misure, perché come si dice, anche se all'interno rimane, ti sembra che rimanga un po' lenta, ma perché molti cosa fanno? Mettono in tira, diciamo, la parte elettrica, tendono a sollevare gli elementi, allontanarli uno dall'altro, però poi cosa succede? In caso di vento la canna non è innestata bene e ti si spezza. Tanto ho notato anche la mia, una volta stai facendo un elemento, funziona lo stesso l'antenna, quindi non è che deve essere per forza in tira come una corda di violino, quella è fatta apposta, deve essere un po' lenta, anche perché essendo di metallo il rame, diciamo, subisce la dilatazione e il restringimento, quindi deve essere un po' elastica all'interno dell'antenna. Sì, e poi come piega col vento, deve avere la corsa per non strappare il filo. Sì, deve prestare anche alle frustate del vento. E così, e vabbè, è andata male questa, dai. Però secondo me è sempre una buona antenna, a prescindere, diciamo, dal vizio di forma che abbia, ma potrebbe essere un po' più robusta, però è un'ottima invenzione. Se tu vai a leggere, c'è scritto che un ottimo materiale di prima categoria, quello che ammettono, capito? Materiale di prima categoria, adesso l'ho data a un amico, se l'ha giusta, e praticamente ha beccato uno che ci aveva la bobina che non so, che c'aveva qualche problema, l'ha smontata, gli ha dato tutti i pezzi che si sono venuti originali. Rimane qui a Sassari, rimane? Come? Dico, i pezzi della tua antenna rimangono qui a Sassari? Sì, a Sassari. Allora, vediamo un po', Natalie. Niente, Natalie non ci segue. Ma dov'è Natalie? Eravamo qua, poco fa. Poi ci abbiamo fatto delle prove in FM. Volevamo provare anche CB Talk, ma non gli va, non gli funziona. A me CB Talk non mi ha mai entusiasmato, poi una volta sono entrato scherzando e ho detto, Break, mi fate entrare in questo canile scherzando, questo qua, come ti permetti, maleducato, questo, ma vattene la fanfuffia, cioè l'ho detto per scherzare, mica per offendere nessuno. Sì, mi ricordo questa sera qua. Tu sei entrato però nei canali quelli, diciamo, fuori dalla Sardegna, oltre i 30 km, dai. No, noi in genere quando entriamo tra di noi e basta, sul canale 14. E chi è tra di noi? Poca gente, io ero mesi e mesi senza usarlo. Ho usato qualche volta addirittura dall'estero. Una volta l'ho usato da Dubai, e ho collegato uno di Cagliari, l'unico che c'era da Sardegna. E qualche volta ho parlato con Giulio quando ero a Santo Domingo e ho parlato con lui qualche volta utilizzando sempre internet, dai. Come non una telefonata, amici. Si sentiva, deve avere una buona connessione, io utilizzavo la connessione del villaggio, deve essere buona, sennò si sente male, la qualità ne va a discapito. Ma è sempre una cosa fredda, non vedi l'apparecchio davanti quando parli, è sempre il telefono, dai. È così. Uno si accontenta perché i camioni si stanno usando tutti quello adesso. E loro hanno dual mic, perché c'è di buono che prende dappertutto. Una persona la puoi tenere tutto il giorno in contatto in qualsiasi posto tu sia, non è più come quando ci vuole l'antenna, che una volta che sei lontano dalla portata non lo senti più. Con questo rimani a contatto dove vuoi. Ma il telefonino si scarica anche. Sì, l'ho lasciato a casa. A voi ne hanno energia in camion, avranno anche la 220, sicuramente hanno inverter, c'hanno tutto. Io se no il caricabatterie normale, c'è di cigari. Ma io la vedo sempre una cosa molto fredda, non è come il baracchino, è diverso. A me piace vedere anche gli apparecchi accesi, io ho tutte le luci blu per il notturno, adesso per dire c'è le luci blu, sono al buio con le luci blu. Sì, hanno provato un po' a ricreare, diciamo, la mascherina di un apparecchio con le manopoline, insomma l'avrei vista la schermata di iniziale. Lo squelch, così, una cosa così, simpatica, dai, ripeto. Poi a qualcuno può piacere, a qualcuno meno. Ma io sono entrato, sono girato, fatto, ho visto che c'è la bussola, tutte queste cose qua, sai con chi stai parlando, dove ci sono i collegamenti, perché c'è la cartina che vede tutto, però non è una cosa che mi entusiasma molto, capito? C'è di buono, vedi che non vuoi disturbare gli altri, perché se disturbi sai chi è che ti sta disturbando, che ti esce la stringa col nome, e più o meno anche la zona da dove sta parlando. giù. Milomi, arrivi tu, questo qui è che c'ha l'antenna con questo signore qua, A parte signore, come si chiama lì? Dipende da come vuoi chiamare. Signore. Vabbè, da un fuoco. Buonasera comunque a tutti e due. Ciao Tore, buonasera, Franco alla parte mia. Tore arriva forte qua, caspita, c'è un segnalone. Tore c'ha l'antenna così autocostruita e te l'ho detto, ho messo la canna per rinforzarla e poi tirare spazio e non si muovi in lungo. Come la mia, aspetta qua, è così, mi manca solo la schiuma, se no è sempre autocostruita. Avanti Tore. Sì, ma la mia c'ha un pezzo di tubo in PVC che tiene cioè, da 2 metri, che la tiene a metà per non piegarsi di più. Io sto usando una canna da pesca da 8 metri, e basta, tutto qui. 7 metri è qualcosa questa? Non è sul tetto, la mia antenna è sulla finestra. Mi arrivi forte, mi arrivi. Per quello è, mi arrivi forte. Allora, già siamo quasi vicini però, in linea d'aria. Io sono Sacro Cuore, tu? Dove sei? La Teloce, dove sei? Scusate, c'è la bretella. Di fronte alla bretella, 10 metri dalla bretella. E tu cosa? La mia antenna, no, la tua non la vede perché c'è il palazzo, capito? Però vedi, vuol dire che c'è qualche canale dove rimbalza e riesci a arrivare bene. 9.30 e più sì. Sì, anche qua tu sei 9.30 qua. Stai arrivando forte. Sì, forte. Avanti, Gianni. Tore, quanto ti arrivo io? Adesso segnale sì. Oh, l'altro giorno eri più basso, adesso sei più forte. Deve essere sul tacchetta. No, perché l'altro giorno c'avevo l'antenna e sono messa a nuovo. Per quello è. Ah, gli arrivi. Oh, è arrivato lo stesso segnale. Oh, di più non ne dà questo, Vabbè, se non ne dà di più ti faccio lo smitter se attacco. Rimedio, lo smitter non li faccio, tu. A che rimedio sono collaudati. Sì, è. Va bene, non ci provo nemmeno. Il massimo che mi puoi arrivare con gli altri, se ciò puoi arrivare 9.60. Io no, ma sono stressato. Andiamo e andiamo. Ho messo un alternatore leggermente più forte Gianni. Ho messo a segnare 9. Tore, tu arrivi 9 più 5, Gianni. Vabbè. Noi siamo anche più vicini forse, capito? Ma più o meno siamo lì, Io sono in mezzo tra voi due, dai. Formiamo un bel triangolo, diciamo. Ma tu esattamente dove sei? Via le Sicilia oppure più lontano? No, però diciamo l'antenna è dentro la parte del giardino, dai. Ah, in terra? Sì, dalla strada non si vede, dai. Si vede dal giardino. Però sono coperto verso la Teloce, per esempio non lo vedo perché l'antenna rimane verso il giardino. Non vedo niente praticamente perché l'antenna rimane all'interno dei palazzi, anche se non sono vicini, però ci sono. Ma il capo tu fatto entrare dentro le rai dell'antenna? No, perché il condensatore, non il condensatore, l'adattatore di impedenza. È un po' a bandiera, a triangolo, ho provato a piegarlo, ma non so se. Sembra che poi mi sembra, secondo me perde anche all'interno un po' l'antenna. Ma perde. Forse perché non mi varia bene che c'è la plastica che blocca. Non lo so, mi sembra che se il condensatore rimane, lo sub rimanga a bandiera, funzioni meglio, invece di piegarlo e farlo diciamo scorrere parallelo al cavo di salita, dai. Poi ho visto che si forma da un cavo, ce ne sono due, poi non so dove vanno a finire. Non è un cavo unico, sono due cavi poi, c'è praticamente un adattatore che si avvita e fa da un cavo a due. Quello lì regoli l'impedenza con quella, quello è lo sub praticamente, ce l'ho anch'io, però il mio invece di essere avvitato, diciamo che è saldato, più o meno a un paio di metri diciamo dalla bobina, un metro e sessanta, dipende poi dalla frequenza che ti interessa, beh. Avanti, Tore. Sì, adesso ce l'hai dietro, la cosa è un po' coperto dai palazzi, ma comunque già stai arrivando benissimo a me. Esci bene, esci. No, la mia c'ha la bobina sotto, c'ha. Hai capito? C'ha la bobina e poi tutti gli stili. Sì, io parto dalla bobina, diciamo, l'ho creata con 16 giri di RD58 e poi parte per 1,20 m, 1,30 m, ci sono varie teorie, e trovi lo stub che sono una sessantina di centimetri di RG213, poi l'antenna continua ancora fino ad arrivare al cavo, diciamo, in rame, quello da.